Brasil, la nostalgia è tu Brasil, Brasil sta lì, l'Italia chi? Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta. Per la sesta Olimpiade consecutiva, l'Italia è in semifinale, il che significa nobiltà e tradizione pallavolistica. Siamo pronti ad affrontare il transatlantico americano. Bomba da porta picchita va bene, si tu la parla miezza americano. Si abbracciano le ragazze a stelle e strisce, il 5 per ognuna di loro per quest'altra finale raggiunta, quella dell'oro olimpico. Dopo 4 anni gli Stati Uniti si confermano, questa volta avranno dinanzi a loro l'Italia. L'Italia. Papà l'americano. Dove va l'americano? E noi vogliamo battere l'America nella pallavolo e nella pallanuoto femminile. La pallavolo sta già giocando in questa semifinale olimpica, Italia 5, Stati Uniti 11, è soltanto l'alba di questa partita, è soltanto il primo set. Certamente stiamo un po' soffrendo, ma è e sarà una grande partita, anche perché vogliamo fortissimamente rifarci delle amarezze di ieri. 800 24 00 24 è l'ultima puntata in pratica di Tutti Convocati alle Olimpiadi. Vi ricordo che domenica avremo una super puntata di Tutti Convocati Weekend con il sottoscritto Giovanni Capuano dalle 17 alle 20 per gli ultimi palpiti dell'Olimpiade e per i primi battiti invece del campionato di calcio italiano. Intanto andiamo dal nostro inviato olimpico Dario Ricci in Brasile. Ciao Dario. Ciao Carlo, ben ritrovato. Ciao. Facciamo un rapido riassunto dell'amarezza che abbiamo dovuto assaggiare ieri sera o questa notte nella profonda notte italiana. Devo dire che sono state due sconfitte di sapore diverso, sia perché comunque una ci ha portato all'argento e l'altra invece la medaglia ancora non ce l'ha portata, sia anche per il modo in cui sono arrivate. Mi riferisco chiaramente a quello del sette bello e quello del duo Lupo Niflai nella finale del beach volley. Per quanto riguarda il sette bello contro la Serbia, si sperava in tutt'altra partita, diversa dalla sfida dei mondiali di Kazan, dove i serbi pronti e via si ritrovarono subito sul 4-0, chiudendo di fatto il match. Beh, qua, come ben sapete, ormai non è che sia andata molto diversamente. Dopo un tempo e mezzo erano avanti 6-0 e di fatto match chiuso, un'Italia che oltre alle difficoltà tecnico-tattiche, come ha sottolineato anche lo stesso CT Campagna, Carlo, ha un po' pagato un approccio sin troppo soft contro questi caimani serbi che veramente insuperabili, e che si giocheranno loro contro la Croazia che quell'oro olimpico lo difende avendoci battuto 4 anni fa a Londra. Sì, sarà un altro Serbia-Croazia come è successo nei quarti di finale del basket, un totale derby balcanico. Certo, approccio soft alla faccia, 0-6 tanto per partire e gara già praticamente chiusa all'inizio. Sì, infatti è quello che il Campagna ha rimproverato proprio suoi, tant'è che CT ha detto dobbiamo parlare di questa cosa, proprio perché tra l'altro alla vigilia aveva invece sottolineato come fosse necessario mettere subito sotto pressione i serbi, fargli sentire un po' lo stress del rischio di non arrivare a un risultato che sembra in qualche modo scontato, visto la superiorità della nazionale serba in questo ultimo biennio. Ebbene, invece tutto questo non si è visto. Vero pure, Carlo, che ricordiamolo, la squadra serba rispetto a Londra ha solamente 2 nuovi innesti. Noi abbiamo praticamente rinnovato il ciclo, abbiamo 7 esordienti. È chiaro che quello che prendi in freschezza, entusiasmo e gioventù lo paghi invece in esperienza in alcune partite senza un domani, no? Allora, 14-8 per gli Stati Uniti nel primo set della semifinale olimpica di pallavolo maschile. Poi parleremo di tutti i temi olimpici, compresa la notte pazza di Ryan Lochte e dei suoi soci in Brasile, che così tanto sta appassionando i rotocalchi non solo sportivi di tutto il pianeta. Poi parleremo naturalmente di Usain Bolt, che si è portato, che ha vinto la medaglia sui 200 metri 19-78, e adesso va con la staffetta per la nona medaglia in tre Olimpiadi come Carl Lewis. Torneremo a parlare della pallanuoto, parleremo di anche di Serbia in un modo un po' diverso, perché oggi mio amico Marino Bartoletti, che è diventato, come molti sapranno, multimediale, è diventato, si è iscritto a Facebook, oggi ha scritto una cosa molto interessante sulla Serbia e sul modo di vivere lo sport serbo. Parleremo anche di palla di beach volley, perché adesso Dario Ricci ci racconta com'è stata la notte da lupi davanti a 25.000 brasiliani per il nostro duo. Meravigliosi, sono stati meravigliosi in tutto il torneo Nicolai e Lupo, che hanno portato la prima medaglia olimpica a questo sport per il nostro paese. Insomma, parleremo di tutto questo e di molto altro, di tutto quello che volete. 800 24 00 24 è il numero verde. Allora, notte da lupi in uno stadio tutto brasiliano, che però Lupo e Nicolai hanno onorato, credo, nel miglior modo possibile. Dario? Direi proprio di sì, Carlo. È stata una serata da leggenda, perché tra l'altro stadio bellissimo, torcida, infuocata, pioggia di rotto, ci siamo nascosti, lo confesso, con gli altri colleghi sotto i teloni che servivano per proteggere i computer e i vari monitor in tribuna stampa. Ci siamo nascosti lì perché a un certo punto pioveva davvero di brutto. Insomma, l'atmosfera di Copacabana, ma il meteo è decisamente autunnale. Però è stato innanzitutto uno spettacolo bellissimo, sfida bellissima. Lupo e Nicolai hanno giocato le loro carte contro Alison Bruno. Bruno, che tra l'altro lo sapete, è il nipote di Oscar Smith, no? È la grandissima mano calda del nostro campionato di basket con Caserta e anche con la tua Pavia, caro, caro sì. Carlo. Tra l'altro Oscar, che poi l'abbiamo incrociato negli spogliatoi, era andato proprio a complimentarsi con il nipote. Medaglia d'oro, ma insomma Lupo e Nicolai hanno fatto una prestazione splendida. Primo set tiratissimo, perso 19-21, altrettanto nel secondo 17-21, contro la coppia più forte del mondo, ma questa differenza, se non nel punteggio, non si è poi vista tanto. Torcida splendida, atmosfera fantastica, diciamo che eravamo entrati nello stadio un poco con rimpianto di non poterci godere dal vivo i 200 di Bolt. Alla fine l'impianto è svanito ed è rimasto solo quello per un argento comunque storico, che promette di non essere l'ultima medaglia di questa coppia e magari di tutto il nostro beach volley. No, certo, ci siamo presentati con grandi credenziali a questo torneo di beach volley, abbiamo portato a casa un argento che alla fine è storico, per l'appunto. Dario, grazie, semmai ci sentiamo dopo. E comunque certamente in ogni appuntamento sportivo, grazie a Dario Ricci. Intanto Italia 13, perché Zaitsev piazza un ace in questo momento. Stati Uniti 17, siamo al primo set della semifinale olimpica. Vedo già in linea Leo Turrini. Ragazzi, allacciate le cinture. 800 24 00 24, il numero verde, vi aspetto. 35 gradi oggi. 35 gradi oggi. Ma i leoni non mollano, ragazzi. Eccoli. Qui è altro che ciupiti di Bobo Viel. Ma i leoni non mollano, ragazzi. Eccoli. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Perché parla di amarezza? Questo non è spirito sportivo, è spirito fazioso da poltrona, mi scrive Roberto. Sarà spirito fazioso da poltrona, ma è chiaro che se arrivi in una finale e la perdi non puoi fare salti di gioia, perdonatemi. Secondo me l'importante è vincere quando ne è la possibilità. La medaglia d'argento è una vittoria, però non puoi non rimanere amareggiato davanti ad una finale persa o ad una semifinale sfumata, come è successo nella pallanuoto, dove i serbi sono anche nettamente più forti di noi, ma ti possono girare. A me girano, anche perché che se ne dica o ne dica De Coubertin mal interpretato, come abbiamo avuto modo di raccontare in queste Olimpiadi, l'importante non è partecipare nello sport. Sarebbe meglio vincere, e se vinci siamo tutti più contenti, anche se dobbiamo pagare i premi e poi si lamentano per quei 150.000 euro di premi agli azzurri in caso di medaglia d'oro. Io sono felicissimo se beccano il premio e la medaglia d'oro, perdonatemi. 800 24 00 24, numero verde, e 349 238 6666, per messaggi e WhatsApp, valgono anche quelli vocali. Vogliamo invitare ascoltatori ed ascoltatrici a eleggere Mister Olimpiadi e Miss Olimpiadi, perché Claudia Schiattone, il nostro autore, ci tiene moltissimo a questa cosa, quindi fatelo, se non per me, fatelo per lei. Leo Turrini, ciao maestro. Sono qui, mi sentite? Sì che ti sento, come sempre. No, perché siamo al Maracanazinho, questa partita contro gli americani, che è cominciata non bene, perché ci hanno fatto molto male col servizio. Sto parlando della semifinale, naturalmente, certo, del torneo di pallavolo maschile. Però stiamo venendo sotto, adesso stiamo 19 a 17 per gli statunitensi. E come la vedi, peccato, questa gara? Cosa leggi? Cosa leggi tu, che di semifinali olimpiche della pallavolo ne hai viste 46? Allora guarda, questa è la storia, la settima volta che la nazionale maschile arriva a una semifinale olimpica e non abbiamo mai vinto i giochi. No, lo sappiamo. Ci sono tre altre semifinaliste, Brasile, Russia, appunto, Stati Uniti, che invece l'oro al collo se lo sono messo, quindi non ti sto a ripetere la solita storiella del tabù. Ma è il nostro scimmione questo. Questo è il nostro scimmione. Occhio, prezzemolo e Pinocchio. Ecco, perché effettivamente si tratta di una maledizione che grava su di noi. Scusa, ma c'è stata una battuta tremenda di un americano e noi adesso abbiamo sbagliato l'attacco. Vediamo però, forse l'ha toccata l'americano, quindi siamo sotto di tre. Sull'attacco di Juan Torena. È una partita equilibratissima, caro mister Genta, perché gli statunitensi sono sempre una buona squadra nel volley, ma loro, mentre per noi è una maledizione, all'Olimpiade ci mettono sempre qualcosa in più, mentre i mondiali spesso deludono, qui giocano con una... Sì, insomma, hai capito? Questi non hanno fatto come Lock degli altri nuotatori. Poi ne parliamo. Sono andati a sfasciare. Poi ne parliamo. In perfetto stile Parfis. La ricezione, maledizione. 21-17. 21-17, caro è solo l'alba di questa partita. È il primo set. Senti, primo ma Leo, ho il diritto di incazzarmi se perdiamo la finale del beach volley, se perdiamo la semifinale della pallanuoto, anche se eravamo sfavoriti ad tutte le partite. Ma ne ho il diritto. Fatto, ma tu pensi, no? Il beach volley, si dice, lo sport, la sabbia, tutto, era talmente incredibile che fossero in finale due italiani che è venuto giù un diluvio amazzonico. Io non ho mai preso tant'acqua come stanotte lì a Copacabana, neanche a Spa per i Gran Premi di Formula 1, dove di solito randellano temporali da paura, ma sei sulle Ardenne, ci stai, capito? Una roba pazzesca, eravamo fradici tutti. Guarda, sono stati anche troppo bravi. Cioè, novembre in Lombardia. Un normale novembre in Lombardia. Sì, sono stati troppo bravi, però, sai, Leo, arrivi lì. A me è capitato, per tutte le finali perse. Non so che cosa dirti. Ne parlavo con Pozzecco l'altro giorno. Quella finale persa nel basket con l'Argentina nel 2004. Sì, e io fine, mi ricordo l'immagine del Poz con l'asciugamano in testa mentre piangeva. Insomma, anche lui dice: guarda, è quasi meglio vincere il bronzo perché finisci il torneo vincendo. Poi non è così, perché l'argento è enormemente più importante, giocare una finale olimpica è enormemente più importante. Però abbiamo il diritto di farcela girare se non ci arriviamo. Che succede? Ma abbiamo sprecato un'occasione adesso, sbagliando ancora a ricevere. Siamo sotto di 4, 23 a 19. Ho paura che questo primo set se ne stia andando. Ma l'Italia però ha chiesto la verifica video per un'invasione, forse. Adesso vediamo cosa dirà il computer. Che questa è una cosa, devo dire, si parla tanto di moviola nel calcio, no? Ecco, la pallavolo ce l'hanno e funziona, c'è anche nel beach e non ci sono discussioni, perché qui c'è la macchina che ti fa vedere, i giocatori si fermano, guardano anche loro col pubblico. Beh, insomma, l'altra sera Leo, lo schermo gigante, l'altra poi sera Italia-Russia di baseball hanno fatto, han fatto un casino torto, e quindi appunto per gli americani sono molto depresso, 23-19. Senti, ma parlami di questo, sì. Raccontaci Zaitsev, che noi conosciamo, che Zaitsev, gran parte del pubblico conosce. Io naturalmente, venendo dal Novecento, perché io sono un uomo del Risorgimento, ho visto giocare il padre. Il padre era uno dei pilastri del famoso CSKA Mosca, quando c'era l'Unione Sovietica, no? Zaitsev, che ne parliamo, va a segno in questo momento 23-20. Esatto, il figlio. E quando cominciò un po' ad allentarsi, diciamo così, la morsa della cortina di ferro, papà Zaitsev ottenne il permesso di venire a giocare nel campionato italiano. Abbiamo fatto punto intanto, 21-23. E il ragazzo è cresciuto nel nostro paese, è italianissimo, ha delle qualità straordinarie a livello fisico. Zaitsev Junior, cioè un picchiatore, proprio un opposto. Nel volley si dice che l'opposto deve essere ignorante, perché sì, deve picchiare la palla con una potenza inaudita. Beh, lui ha questa faccia, ma deve essere un'esplosione di forza bruta, e questo ragazzo ce l'ha, ci tiene tantissimo, devo dire, a questa finale che speriamo possa arrivare. E poi so che, sebbene sia sentimentalmente impegnato, è l'idolo delle ragazzine italiane. Sì, è vero, vero, vero. Già, vero. Già ai tempi delle Olimpiadi di Londra, un po' per come porta i capelli. Sì, ma poi ha questa faccia da cattivo. Ancora, sì, ce l'ha ancora. No, ma che poi, così, che no, poi i giocatori di... Ha una popolarità, vuol dire che va al di là del confine dello sport. Sì, ma poi i giocatori di pallavolo, secondo trend degli ultimi anni, si portano tutta la gioielleria addosso, orecchini, collane, braccialetti, qualunque cosa. Adesso batte lui sul 23-21. 22-23, continuiamo a parlare di Zaitsev per due ore. Andiamo avanti a parlare di Zaitsev per due ore. Sotto anche di 6, adesso abbiamo lo zar in battuta che si sta soffiando sui polpastrelli. Se ne mette un'altra, mandiamo in banana gli americani, vediamo un po'. Sì, ecco, ma poi qua ha questa faccia molto cinematografica da cattivo russo. Da... Allora, giochiamo ancora noi. Vediamola. Ah, pari, li abbiamo raggiunti, muro, 23-23. Vedi che andiamo bene. Adesso c'è un'Italia che è tornata in partita, e se riusciamo a sorpassarli... Adesso torna lo zar lì a randellare. Vedi, vediamo che un po'. Abbiamo cominciato a parlare di lui. Poi a seconda di dai, chi va. Parliamo di Zaitsev finché va così. Certo, finché parliamo di Zaitsev. Parliamo di Zaitsev. Per tirare, vai. Certo. Ha un tatuaggio sul braccio, non capisco cosa rappresenti. No, non lo sa nemmeno lui, però gli piaceva. Ma quindi quindi l'ha fatto. Vai in battuta ancora. La giochiamo ancora, attacca il cubano e ha preso muro. Era una palla sporca, forse è stato l'alza, però non lo alto regno. Avrebbe dovuto appoggiarla, secondo me, per rigiocarla invece di cercare. Scusate i termini tecnici, ma io ho visto la prima partita di pallavolo che c'era la seconda guerra d'indipendenza, quindi c'è molto gli americani. Sì, set ball per gli americani, no. Però 24-23, una rimonta che comunque in un set che non era... Di nuovo, è sempre il nostro idolo, lo zar, 24 pari. E poi ho letto che tira... c'è da morire qui, guarda, non lo sapevamo. Tira fortissimo Zaitsev, no? Gli americani hanno vinto la Coppa del Mondo, noi siamo arrivati secondi. Alcuni esperti dicono addirittura che questa è la vera finale, perché il Brasile non sta giocando bene e la Russia fin qui ha fatto un torneo molto modesto. Io non so se sia vero. Però sì, adesso hanno chiesto gli americani di controllare il computer, non so cosa. E che noia. Senti, io ho dei messaggi, 349-238-6666, a parte il fatto che in onore di Claudia Schiattone ho chiesto a ascoltatori e ascoltatrici di votare Mister e Miss Olimpiadi in questa edizione. Vedo che stanno già arrivando dei messaggi vocali via WhatsApp. 349 la richiesta americana, quindi sì, respinta a casa, 24 pari, il computer ha dato ragione a noi. Cosa, c'è chi mi scrive: ma cosa pensate di Juan Torena, che ha dichiarato di essere cubano e di giocare in Italia solo per opportunità e convenienza? Ma devo rispondere io o rispondi tu? No, devi rispondere tu, che io Aspetta, però guardiamo questo servizio, eh. Va bene, guardiamolo insieme. Juan Torrent intanto lo vediamo con le mani dietro la nuca. Guardi tu e quelli in radio ti ascoltano, l'abbiamo tenuta, dobbiamo metterla giù. No. Vedi, non bisogna evocare in questo modo Juan Torrent, ha sbagliato la schiacciata del sorpasso. 25-24 per gli Stati Uniti che hanno un altro set ball. E quindi... ma insomma, io adesso voglio dire una cosa sulla vicenda che hai evocato. Adesso però abbiamo protestato noi, eh? Quindi c'è una chiediamo sì, è peggio di Juventus Inter sta partita, eh? È peggio di Juventus Inter. Adesso chiamo Cesari. Adesso chiamo Graziano Cesari, è peggio di Juventus Inter. Abbiate pazienza, ma qui bisognerebbe che il video check ci concedesse la ragione, ma allora, vediamo un sai, po'. Sai noi adesso cosa facciamo, Leo Torrini? Mi sa di no, no. Sì. Ha dato ragione agli americani. Noi quindi protestiamo, ma il computer ci ha dato torto e quindi c'è un altro... C'è un altro set ball per gli americani sul 25-24, ma sai cosa facciamo adesso? 24, sì. Noi che siamo bastardi, teniamoli tutti con il fiato sospeso, ascoltiamo la borsa, le notizie dei mercati finanziari, e poi l'esito ve lo diamo dopo. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run, boy, run. Tutti convocati alle Olimpiadi. Il finale di questo primo set della semifinale olimpica, non siamo ancora in grado di darvelo né io né Leo Turrini che la sta guardando a Rio de Janeiro. C'è da morire, c'è da morire. Prima abbiamo salvato il set ball con una cosa di colaci e lanza in difesa pazzesca, poi ci ha pensato lo zar, però adesso gli americani ne hanno un altro di set point, 27-26, e insomma vi ho detto, questa è una partita, è un po'... È un po' come la battaglia di Calatafimi per Garibaldi, che io ero là, hai capito? Sì, qui si fa l'Italia o si muore. Ne hai fatto la cronaca. Devo dire, è infinito. È solo il primo set, scusa, abbiamo ricevuto Giannelli e non ho capito... Sì, l'hanno toccata, meno male, perché aveva tirato Juan Torrent, la palla è andata fuori, ma il muro... americano, come dite voi che avete studiato pari. La sporcata, quindi 27 pari. Beh, certo che lo zar e il cubano che gioca in Italia per l'Italia solo per opportunità e convenienza va ma bene, non è va... vero, questo adesso dopo va ne bene. Parliamo perché dopo qui ne parliamo. Preso no, lo so. Avanti gli americani Juan Torrent in battuta, hanno una gran bella squadra comunque questi statunitensi, eh? Cioè, comincio davvero anch'io a credere che è la vera finale, poi l'Olimpiade la vincerà il Brasile, va bene, ma io mi sbilancio. Stiamo vedendo una grandissima pallavolo dopo la brutta partenza dei nostri, altro set ball per questi fustacchioni cresciuti a Core Flakes. Andiamo un po'. Dai. Sì, bravo, bravo, bravo, bravo. Ho visto lo zar qui, ha finto di attaccare, l'ha appoggiata. 28 pari, però, potrebbe finire 43-41. Sì, sì, e potremmo anche fare notte. Così non puoi parlare di niente, caro Jay. No, ma non ho mica problemi. Ma stiamo raccontando. L'Olimpiade è questa, ragazzi. Tutti convocati all'Olimpiade. È l'emozione di questi momenti. Che dobbiamo fare? Dobbiamo raccontare. Mamma mia, abbiamo sbagliato. No, è buona. Buona. C'è una decisione dubbia qui. Perché ha battuto. Sì, no, ha dato il punto di americano. Ha battuto Birarelli. C'è una rissa adesso addirittura sotto rete, i nostri sono furibondi, gli arbitri hanno dato il punto agli americani sul servizio di Birarelli che è uscito, ma i nostri sostengono che un americano ha sfiorato la palla. Adesso vediamo se ci mandano il replay, perché il problema è che credo che l'Italia abbia esaurito, tu puoi chiamare, lo dico per il pubblico, due verifiche al video check per set. Se vengono respinte non ne hai più, eh. Juan Torrent è andato al di là della rete, cosa vietatissima. I nostri sono fuori di... ha dato il tocco all'arbitro, 29-28 per l'Italia. Ha invertito la decisione, quindi abbiamo il set ball noi. Sì, ci ha messo un quarto d'ora. Abbiamo il set ball noi. Ci ha messo un quarto d'ora a darlo. Il sorpasso batte Birarelli, che ha una storia al servizio che poi magari dopo se vinciamo questo set la racconto. perché una volta nella qualificazione olimpica eravamo fuori col Giappone, perdevamo 24-16, andò lui in battuta, mise 8 servizi vincenti e vincevo la partita e ci qualificavamo per l'Olimpiade di Pechino. È un mio amico, gioca a Perugia, centrale, batte in un modo, da un effetto la palla, adesso se ne fa un'altra. Abbiamo vinto il la torsida. Su modo la messa 30-28, te l'ho detto, questo è un fenomeno, perché tutti picchiano nel volley moderno, cioè vanno in battuta e randellano tipo Vantoregna, Zaitz eccetera. Mirarelli va lì che sembra mia nonna felpata, hai capito? Se la batte a Palombella, la foglia morta di Mariolino Corso, qui è un delirio. 30-28 per l'Italia, è finito il primo set. Bene. Non ci arrivo alla fine di questa partita. No, devo scendere, c'è che fa male alla salute, ma devo andare a fumare una sigaretta. Tanto adesso 3 minuti e puoi parlare tu, che adesso si riposano, è una cosa pazzesca. Intanto hai vinto il titolo, hai vinto il titolo di Mister Olimpiadi. Oggi ho chiesto ad ascoltatori e ascoltatrici di scriverci, dirci anche WhatsApp vocali chi è Mister o Miss Olimpiadi. E Mister Olimpiadi, secondo una gentile ascoltatrice, è Leo Turrini che mi scrive, è galattico. Comunque, l'Italia si porta a casa. Carlo, sei concitato, la voce se ne va. Evidentemente senti anche tu la partita. Pronto, pronto. Pronto, pronto, eccomi. Allora, dove siamo rimasti in sospeso con Guantorena che gioca solo per opportunità e convenienza con la maglia azzurra. Beh, allora, veramente non è così. Io non so cosa abbia detto Osmani, ma lui ha lasciato Cuba anni fa, come tanti hanno lasciato Cuba, campioni dello sport, ha seguito un percorso, perché non è che l'Italia l'ha potuto immediatamente nazionalizzare, è stato fuori dal grande giro internazionale per diverse stagioni. Poi dopo, se vogliamo parlare e dire ma l'atleta che da Cuba si allontana lo può fare perché trova che gli dà i quattrini, mentre magari il pescatore di Mariscos al largo della Havana non avrà mai questa opportunità, sono d'accordo, il mondo è fatto anche di queste ingiustizie, chiamiamole così, ma tenete un certo anche punto, presente, Leo, l'avrete visto soprattutto nell'atletica, che ci sono stati, e non è il caso dell'Italia, come il Bahrain o il Qatar, che danno il passaporto a campioni del podismo, no? Sì. Non so se avete fatto caso, anche della velocità, che sono africani e che assumono la nazionalità di questi stati del Golfo Persico, il Bahrain, non so, ha già vinto anche delle medaglie nell'atletica leggera, insomma, poi io ripeto, può essere considerato spiacevole, ma... No, ma guarda, io sono per la possibilità di convocare chiunque sia eleggibile sulla base di documenti credibili. No, ma voglio dire, quanto regna... Ma io non ho niente, assolutamente. Ha lasciato Cuba da anni, Cioè, non è... sono anni, ha aspettato anni per poter vestire questa maglia, certo, cioè non è certo che ha scelto la strada più comoda, è venuto via da Cuba, perché in Italia abbiamo delle leggi più complesse rispetto alle altre nazioni. Ma è chiaro. E dopo 2 anni giocava, hai capito, con la sua nuova nazionale, poi che dentro di sé si senta cubano, è anche parente alla lontana del grande El Caballo Guantoregna, no? Vuoi fargliene una colpa, io non me la sento, non me la sento. A me, io sono felicissimo di vederlo con la maglia azzurra giocare la semifinale delle Olimpiadi. Poi voi pensatelo un po' come vi pare. Leo, mentre torni sulla tua poltronissima per il secondo set, abbiamo in linea Giorgio Rondelli, parliamo anche no, non c'è il traffico. Salutatemi il professor Rondelli, che come dico sempre è il più grande esperto di cose tecniche di atletica leggera, è un uomo al quale io porto un affetto infinito e mi fa piacere dirlo in diretta. Ma anch'io. Ti prenoto una pizza dove vuoi. Senti, Giorgio, ti lancio con quest'audio che è quello relativo alla notte di Bolt. Sia 6 per Usain Bolt, che è partito forte. Il centro fa sempre più fatica ed è nettamente in testa, dietro, testa a testa anche con Alonso Edward per la seconda piazza. Insomma, gioca anche Gemini, va a vincere alla grande, De Grasse secondo, Gemini forse terzo, 19-79, ha ceduto la Sean Merritt, forse Gemini, zona podio, ha fatto molto bene anche Christophe Lemaitre e Ciurán Di Martina. con una rimonta 19-78, pareggia il personale stagionale, non c'è nemmeno il miglioramento del miglior risultato al mondo di quest'anno. Usain Bolt ha vinto. Giorgio, posso dire una cosa? No, non c'è ormai non c'è nemmeno da parte, di voi telecronisti, tu adesso stai facendo commento tecnico per la Rai, non c'è nemmeno tanta enfasi nel raccontare l'ottava medaglia d'oro di Usain Bolt. Vabbè, 19-78 non riesce nemmeno a migliorarsi. Hai centrato, Carlo. Ormai sembra di andare a vedere, perlomeno negli ultimi anni, delle gare un po' in fotocopia. Ieri sera riflettevo, dico, è come andare ormai a un grande concerto di musica rock, sai che alla fine sarà comunque un successo, e quindi lui vince. Ieri sera voleva fare anche il tempo, però a volte non c'è riuscito per due motivi: uno, perché c'era stata anche un po' di pioggia, le condizioni non erano forse ideali, perché è una pista che rende molto a quella dello Stadio Olimpico di Rio de Janeiro quando il tempo è caldo, e secondo perché negli ultimi 100 metri non è più il Bolt del 2008-2009 nella fase lanciata. Beh, ma ragazzi, comunque, Leo, in situazioni normali, Giorgio, considerato come passa, ha fatto la semifinale, valeva da 20 a 30 centesimi in meno. La novità è De Graas, molto bravo, all'inferno e ritorno è sicuramente Lemaitre, che dopo essere stato il primo bianco sotto i 10 netti e aver sfiorato il primato europeo di Mennea sui 200 metri, era caduto un po' così, era andato più che in disgrazia, non riusciva più a esprimersi a un certo livello. Così si capisce anche la sua gioia dopo una veritatissima medaglia di bronzo con l'ultimo 100 a livello di Bolt sul tirino d'arrivo. Sì, ma non è strano che non riesca neanche più a sorprenderci, Usain Bolt. Adesso va per le 9 medaglie olimpiche come Carly Lewis. Gli avversari, sì, anche quando sono credibili o competitivi come l'anno scorso Gatlin, poi si fanno un po' intimidire da lui. Non aspettiamoci anche nei prossimi anni, adesso non so se lui smette, va avanti così, tempi straordinari. Comunque straordinario che abbia vinto, sono 9 anni che ai vertici, è l'unica volta che ha perso è perché ha fatto una partenza falsa sui 100 certo, metri, quindi guarda, nella storia dello sprint mondiale non esiste niente di simile. Ma paradossalmente per me è molto più significativo rimanere a questi livelli per 9 anni che non certo stampare un record del mondo dietro l'altro, perché il vero record assoluto è nella longevità di un atleta che per 9 anni riesce a dominare in maniera incontrastata l'atletica. Ma sai, diciamo, ha avuto, e la sua bravura è stata questa, è intanto un talento straordinario, perché bisogna partire dai tempi che faceva a livello giovanile, tempi già straordinari allora, poi appunto dalle sue qualità, questa ampiezza, frequenza, 41 passi, 40 100 metri, ma tempi di appoggio al suolo velocissimi, e anche il fatto che avendo qualche acciacco, sempre recuperato prima delle grandi manifestazioni, è una atleta che comunque ha gareggiato sempre nelle grandi manifestazioni, poco è andato dietro i soldi, tanto gliene arrivano dagli sponsor delle carrettate durante l'anno, e quindi per certi versi non è andato a usurarsi del tutto, anche altre precauzioni, allenarsi molto sull'erba e non sulle piste molto performanti ma anche molto traumatiche, insomma un esempio di ottima gestione di un atleta che dire che è una sorta di extraterrestre è dire la verità. Senti Giorgio, è chiaro che adesso si aprono i paragoni epocali, perché può arrivare alle 9 medaglie con la staffetta come Carly Lewis. L'altro giorno leggevo una lunga intervista sul Corriere della Sera di Carly Lewis, mi sembra che non ci sia tutto questo buon sangue, ma questo lo trovo anche naturale, no, tra il vecchio Lewis e Usain Bolt. Ma guarda, Lewis è, come dire, il campione del secolo scorso, anche così divino, tutti apprezzano il suo gesto tecnico, poi 4 medaglie d'oro, il salto in lungo in 4 Olimpiadi consecutive, e anche lì è assolutamente fantascienza, però è un campione un po' ascettico, hai capito? È un po' lì, quasi non leggermente scontroso, poco avvicinabile, con la sua aureola di vino, e invece Bolt è il campione. È il campione universale a tutti gli sport, quando entra nello stadio sembra che entri la squadra di casa a giocare a calcio, disponibile con la stampa, farsi selfie, così, insomma, è un campione che piace a tutti, anche chi non ama l'atletica, e questo è straordinario. Piuttosto chiediamoci quel giorno che lui smetterà, l'atletica si regge molto su di lui come immagine, meno su, chiaramente non ha tantissimi altri protagonisti oggi come oggi. Giorgio, voglio chiudere con 50 km di marcia che insomma abbiamo visto oggi, vabbè, lasciamo perdere i retropensieri che fatalmente ci sono, però una corsa drammatica vinta da uno slovacco, cioè Matej Toth, davanti all'Australian Talent. Hai detto bene, è stata una sorta di dramma greco con il francese Diniz, che è stato davanti 32 km, poi si è fermato, poi è ripartito, poi è svenuto, e poi con l'attacco del canadese Dunphy, e poi Talent, e poi all'ultimo giro è arrivato quello che è partito per ultimo, è arrivato primo, e Toth, che era oltre campione mondiale, è diventato anche campione olimpico. Male gli azzurri, l'unico arrivato di Luca su intorno alla 20ª posizione, sì. Caporaso è stato squalificato, e mentre Giupponi si è ritirato. Fra meno di un'ora scenderà in gara Eleonora Giorgi, la Palmisano e la Rigaudo, ed è forse, secondo anche gli addetti ai lavori, l'ultima lontana speranza di conquistare una medaglia, anche se domenica c'è la maratona. Però c'è una brutta notizia per i nostri, che sembra che sarà brutto tempo, quindi gli africani che già vanno veloci potrebbero avere davvero condizioni climatiche per poter tenere i loro ritmi che conosciamo, sono anche sotto i 3 km. Sì, tra l'altro Denis, il francese che tu hai citato, oggi ha avuto anche un imbarazzante problema intestinale nel corso della gara. Già avuto nel 2014 a Zurigo, solo che lì poi si riprese e fece il record del mondo. Grazie Giorgio. Grazie a voi, buon lavoro. Un abbraccio, Giorgio Rondelli. Allora, Italia 8, Stati Uniti 7, siamo nel secondo set. Ho lasciato respirare Leo Turrini perché temevo per la salute sua e di tutte le sue ammiratrici. Già dico che sono invidioso come una bestia, perché sono un sacco di donne che chiamano e scrivono solo per Leo Turrini. Quindi adesso, per farmi passare un po' la rabbia, sento la viabilità e poi torno da lui. Mister Olimpiadi David Catuatu, Mrs. Olimpiadi fu Joan Gui, Mister Olimpiadi italiano Greg Paltrinieri e Mrs. tutte le donne del Sette Rosa. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva, a lui bisognava tirargli la bomba. Bam, bam, bam. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. E dunque torniamo, sono un po' preoccupato per Leo Turrini, anche perché questo secondo set sta seguendo la falsariga del primo, anche se è l'Italia a condurre, no Leo? Sì, sono qui, vorrei evocare, visto che l'abbiamo avuto con noi ieri, Mogol, diceva Battisti, mi basta il tempo di morire, è una partita pazzesca. Siamo 11-10, adesso gli americani l'hanno messa giù, è veramente, come si dice in gergo, è una battaglia punto su punto, sì, corpo a corpo, spalla a spalla, pallavolo, quella moderna che è tutta imperniata sulla fisicità, sì, è diventato uno sport di una violenza bestiale, da paura. È diventato uno sport di una violenza emotiva, anche oltre che fisica, spaventosa. Sì, perché qui si sta notando che la differenza, che alla fine ci sarà, speriamo a nostro favore, comunque sarà minima, certo, cioè certo, abbiamo già apprezzato il primo set e questo è uguale, con la differenza che nel primo eravamo partiti male, eravamo sotto, poi siamo rientrati. Adesso siamo avanti di due, batte lo Zar, l'hanno tenuto, vediamo un po' cosa combinano in attacco, gli abbiamo piantato un muro a tre spettacolare, ma la rigiocano loro, non cade mai sta palla. Guardate che questa veramente è una partita che io non vedevo da anni, si sta continuando, l'abbiamo tenuta ancora noi, e però abbiamo preso una murata bruttissima, è andata ad attaccare lo Zar, e questa volta gli americani gli hanno posto gli euromissili. Muro vincente. Muro vincente. Potevamo andare avanti di 3. Senti, eravamo 12-10, Leo, io, siamo io aspetta. 12-11, oh, ma siamo sempre davanti. Non è una partita, è un'agonia, è uno spasmo permanente, una cosa lancinante. Io stesso dirò una roba. Non vedevo una cosa del genere sperando che sia un epilogo diverso dalla finale di Atlanta con gli olandesi 20 anni fa. Bella, e cosa ce l'hai tirata? Volley, ma è la stessa tensione indicibile. Sì, è vero. Tra due squadre uguali, uguali intendo come capacità, come rendimento, come mentalità. Sì, non so dire, l'abbiamo messa giù noi, bene. Non so dire come andrà a finire, non chiedetemi un pronostico. Il mio amico Bleggini ha una faccia stravolta, sembra Ugo Tognazzi nel primo Amici Miei quando scopre che Silvia Dionisio ha un'amante donna. Però insomma, speriamo che si mantenga lucido Bleggini. Allora, Chicco, abbiamo bisogno che chiami Leo, devo dirti una cosa. Allora, io sono invidioso come una bestia nei tuoi confronti per due motivi. Il primo è che ricevi una quantità di apprezzamenti che io, vabbè, a me mi piace molto ricevere gli insulti, ma ogni tanto una carezza fa bene. Leo Turrini è il gran visir del giornalismo sportivo italiano. Ci sono gentili signore che ti eleggono Mister Olimpiadi. Noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di eleggere Mister e Miss Olimpiadi. C'è Sofia da Ancona che vuole parlare con te. Non so più cosa dire. Sofia, buonasera. Buonasera. Allora, io premetto che il mio intervento non è pertinente perché non ti capisco niente di Olimpiadi, che non seguivo. Conosco, mi scusi lei, signor giornalista, io non conoscevo lei, non conosco neanche il signor Turrini, però a 40 anni le dico io che adesso ho voglia di fidanzarmi. L'ho sentito ieri sera casualmente alla radio, sì. E io mi candido come fidanzata, quindi per carità, lei deve sopravvivere a questa partita, assolutamente. No, aspetti, io niente, non è che porta no, un'amica. No, lei è... cosa ne so? Porta un'amica. Non si fa così. Ne abbiamo tante, non si preoccupi. Sofia, non si fa così però, tutti per Turrini e io che... Ma sono stata fulminata sulla strada per Damasco, le dico la verità, ieri sera, io non so neanche che passa abbia questo signore, però veramente è un mito. E lo so, è un mito anche per me. Ma allora facciamo una cosa, leggenda. Lei è altrettanto mito perché lo sta invitando, no? Sì. Se l'ha invitato, lei. No, è mio caro amico. Io non potrei, ormai non potrei più vivere senza di lui, siamo una coppia di fatto, siamo etero entrambi, questo è chiaro. Le devo però dire che Turrini, ci sei? Sono qui, ringrazio. Hai sentito Sofia, questa dichiarazione di amore? Presa la partita, abbiamo messo un ace con Buti. L'altro centrale. No, ma scusami. No. Ma allora c'è Sofia che ti fa una dichiarazione di amore e tu mi parli di Buti? No, ma non ho capito. Ma sei un maleducato. Partita di pallavolo da medaglia olimpica. No, ma ascolta. Scusa, ma io vado in trama. No, ma fai il bravo. No, ma questa voce andava e veniva. Adesso io ringrazio Sofia. Allora Sofia ha detto che allora te lo ripeto io. Sono gratissimo. Però insomma qui siamo 15-12, no, Sofia, capito, io non ho capito, fa, no, ma ho capito, fa, no, no, vuole, allora fa, Sofia che è dolcissima, ha detto. Ti prego, arriva alla fine della partita perché io sono rimasta fulminata da te, non me ne frega niente dello sport, della pallavolo, delle Olimpiadi, di tutto quanto, da quando ti ha sentito fare il cantore a Radio 24 è rimasta fulminata da te e vorrebbe chiedere la tua mano, che però è già impegnata, questo lo devo dire a Sofia, e tu rispondi a una tale dichiarazione che io non ho mai sentito in vita mia parlandomi di Buti. Ma ti sembra il caso? Allora, adesso abbiamo messo giù un paio e non ci posso fare niente. Sofia mi capirà, è la passione per questo sport. Abbiamo messo giù una palla, siamo avanti 16-13. Però voglio dire a Sofia, il merito è tutto di Genta. Io non sono un mito, ma un mitomane. Il vero mito è Carlo Genta, che si è inventato questa trasmissione. Sofia è stata molto chiara. Sofia è stata molto chiara. Io non so chi tu sia, non mi interessa anche molto relativamente. Io sono stata fulminata sulla via di Damasco dai racconti di Leo Turrini. E Sofia D'Ancona ha detto questo. Tu mi rispondi con Buti, con un'Italia che pure sta vincendo 16-13. Sofia, guardi, lo perdoni. Dovreste essere qui voi a vivere, a percepire questa emozione. Io, cioè, Mi guarda, scuso, ti aspetto, arrivo domani pomeriggio, adesso prendo l'aereo. Sofia, io in questo momento sono veramente blindato nei miei pensieri, non ci posso fare nulla. Batte Giannelli, che ha 20 anni, potrebbe essere mio bisnipote. E gli americani hanno ottenuto una palla incredibile, peccato, peccato. Sofia, lo perdoni, lo perdoni. Ma io lo capisco, perché ai tempi, quando ero giovane, anch'io ero molto appassionato di pallavolo, quindi lo capisco. No, ma lo perdoni, si è comportato veramente da villano, Leo Turrini. No, perché non si può, non si può fare così e parlare. Vabbè, rimane. Stavo scherzando tutti quanti. Comunque la ringrazio, perché è campionessa olimpica degli interventi. Gli ascoltatori mi perdoneranno la stupidità che ho detto, perché magari no, ma la perdoneranno, ma per me lei è migliore in campo di queste Olimpiadi. Per me lei è Miss Olimpiadi. No, comunque adesso veramente io sono a lungomare qua al Porto Recanati, adesso mi fermo, vado a cercare una TV, mi finisco a vedere la partita. Così? Eh sì, ma mi sembra un'eccellente idea. No, ma perché è bellissima, è 17-14 per l'Italia, stiamo avanti 1-7-0, vinto ai vantaggi dopo un primo tempo, un primo set interminabile. È una partita meravigliosa, me la guarderei anch'io, peccato che devo... No, è una partita orrenda, è disumana, questa è una cosa da morirci in petto. Ma io preferisco le partite, si fa 25-8, 25-14, 25-2, hai capito? Che sì. Sei rilassato, disteso, non questo. Qui sì. Stiamo vedendo un pezzo di storia dello sport, ma è tremendo, è una cosa. Veramente, io comincio a boccheggiare, tra breve chiederò l'ossigeno. Questi no, americani non mollano mai. Guarda, guardali qui. Tra poco io ti lascio. C'è chi scrive: i tuoi commenti sono meravigliosi. Grazie a voi ho conosciuto meglio Leo Turrini, è un grande. Norma da Verona. Mitico Leo Turrini, per me tiene dell'Inter, sì, questo lo sanno tutti, caro Daniele, eccetera. Leo è lo zar del giornalismo italiano e poi come me super tifoso del Santo Bevitore, vabbè, non so più che cosa dire, ti lascio alla partita, ti odio profondamente, ti invidio, non sa. Io sono invece qua a dirti che devi soffrire con me. Richiamo nella seconda ora, gli americani stanno recuperando 17-16. Ci sentiamo dopo. Devo assolutamente, adesso Chicco Blengini ha chiamato time out, quindi ancora lucido, l'avrei fatto anch'io al suo posto. Niente, se non ci si sente negli ultimi due giorni olimpici vuol dire che sono deceduto durante questa partita. Un saluto, grazie a tutti. Ciao, Leo. Davvero, mi avete commosso, grazie. Ciao Leo Turrini, volevamo parlare anche di molte altre cose con Leo Turrini, ma avete sentito non c'è la fama, io lo capisco umanamente, è totalmente calato in questa partita pazzesca, 17-16 secondo set per l'Italia che ha vinto il primo, si sta giocando, ve lo ricordo, caso mai vi foste distratti come la signora Sofia D'Ancona di prima. Si sta giocando per entrare nella finale che vale l'oro olimpico. Adesso ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo, volevamo affrontare anche altri temi, altri argomenti, questa partita poi ci ha distratti, però è anche il bello di raccontarvi le Olimpiadi in diretta. Volevamo parlarvi di Pulp Fiction e dei nuotatori americani guidati da Ryan Lochte, che tra l'altro è nemico giurato di Massimiliano Rosolino, che l'ha sempre detestato nemmeno troppo cordialmente, e dei suoi compari Benz, Cogner e Fenkner, che hanno devastato una stazione di servizio e poi hanno detto ma siamo stati rapinati con la pistola alla tempia. In realtà non è così, hanno combinato un casino epocale, uno dei peggiori di questa Olimpiade, e adesso dovranno mettere la coda tra le gambe e chiedere la scusa a un po' di gente. Allora ragazzi, 18-16 per l'Italia secondo set di questa semifinale olimpica, dopo che si è vinto il primo, 18-17 in questo momento il tassametro corre, non vorrete perdervi il secondo set con noi. Dopo GR ci risentiamo. Figa, fuga di Kifle è stata placcata. Tutti convocati. Figa, fuga di... Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, Umbè, ma c'è solo un piccolo problema. Non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma. Ma di che parla? Ah sì, è vero, c'è ragione Filippo. Aspetta, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, aspetta! Lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Tutti convocati alle Olimpiadi. Finisce in questo momento, la Serbia batte l'Italia per 10-8. La Serbia sfiderà la Croazia per il titolo olimpico. All'Italia resta la finale per il bronzo con il Montenegro, ma è sicuramente un successo comunque per il mondo della pallanuoto italiana. Mi è dispiaciuto l'approccio timoroso dei miei ragazzi e un poco spregiudicato, probabilmente anche insomma, rispetto a una squadra che 4 anni fa gli mancano soltanto 2 giocatori, noi 7, molti giovani, questo può fare la differenza in una partita del genere. Quindi quando diciamo siamo giovani, siamo esordienti, quindi è bello, poi paghi anche uno scotto a un certo momento. Quindi si riescono a ricaricare le pile? Si devono caricare le pile. Il Montenegro ha visto questa partita, visto che la razza è quella fisica, quindi la metteranno su quel piano lì sin dall'inizio e quindi non ci dobbiamo far sorprendere. I can take you high. Ooh, I'm on fire. Col Montenegro c'è sempre in palio un bronzo, partita tosta pure quella, anche se l'abbiamo già battuta nel girone. Sì, ma quello, il girone è un'altra cosa, adesso sono partite con un altro impatto emotivo, un altro... è totalmente diverso, quindi ogni partita ha la sua storia e noi lo riconosciamo bene, anche perché molti di loro giocano in Italia. Ci abbiamo giocato negli ultimi anni, quasi ogni anno ci abbiamo giocato contro, quindi siamo due squadre che si conoscono molto bene, quindi sarà una partita molto aperta, molto equilibrata e che vinca il migliore. Speriamo di portarvi e di darvi soddisfazioni a tutti, dai. Io ci ho ripensato, voglio cambiare sport. Mamma, posso cambiare sport? No, meglio non cambiare sport, caro Palombella Rossa. Abbiamo sentito Campagna e Gallo dopo la sconfitta di ieri contro la Serbia, che ci manda a giocare una finale pallanuoto maschile, naturalmente una finale per la medaglia di bronzo, che è comunque una finale olimpica. Intanto io vi tengo costantemente aggiornati sull'Italia della pallavolo, che sta facendo impazzire Turrini in Brasile. Lo abbiamo lasciato andare perché temevamo per la sua salute. Comunque abbiamo perso il secondo set 28-26, continua ad essere davvero una battaglia campale. 1-1 il punteggio, vinte l'Italia primo set ai vantaggi dopo una lunga rincorsa, perso il secondo 28-26 dopo essere stata a lungo a condurre nella seconda frazione. Ora è iniziata la terza e siamo 4-1 per gli Stati Uniti. È una partita pazzesca questa dell'Italia della pallavolo. Roberto Calcaterra è un cavaliere della nostra pallanuoto invece. Non so se sta guardando anche lui la pallavolo. Buonasera a tutti, sto guardando anch'io la pallavolo. Cosa ne pensi? L'incontro è bellissimo. Bella, eh? Bellissimo, veramente colpo su colpo. L'Italia stava vincendo anche il secondo set. Due muri determinanti e ripassato avanti gli Stati Uniti, quindi sarà dura. No, io prima dicevo, sono stato criticato da qualche ascoltatore perché ho detto che la pallavolo è diventata, e tu Roberto hai attraversato diverse Olimpiadi, avrai avuto modo anche di vederla dal vivo, credo, certo, qualche partita certo, di pallavolo. Racconto un aneddoto sì, certo. Sì. Io stavo notando come sia diventato uno sport di una violenza emotiva pazzesca. Poi mi dicono: ma come fa a essere uno sport violento dove non c'è contatto fisico con l'avversario? È chiaro, non è la pallanuoto, ma sto parlando di emotività. Certo. Non si riescono a tirare colpi, no? Loro si menano con gli sguardi, con le parole, sì. Quindi è quella, è terrorismo psicologico. Credo. Bravo, che è peso di quello fisico, sì, perché il mio amico Zorzi quante volte mi racconta sfogare. Che sotto quella rete ti dici qualunque cosa e non puoi sfogarti con il contatto con l'avversario, Roberto. No, assolutamente non puoi, però sì. Credo sia lotta di nervi. L'aneddoto me lo segno o me lo racconti? Ma guarda, l'aneddoto è la pallavolo era il mio sport preferito quando ero bambino, quindi saltavo gli allenamenti di pallanuoto per andare a fare quelli di pallavolo con la scuola. Poi per fortuna l'allenatore mio era un campione del mondo qua a Civitavecchia, conosceva benissimo il professore di educazione fisica. Si raccontano che praticamente io saltavo gli allenamenti per andare a fare pallavolo, quello di pallavolo non mi ha più accettato a scuola, quindi ho dovuto continuare a fare la pallanuoto. Poi Atlanta fu un'esperienza bellissima perché poi i miei idoli, quelli degli anni 90, quando vinsero il mondiale, e quindi parlo di Zorzi, parlo di tutto il resto, no? Toffoli, Bernardi, Cantagalli, tutti quanti, ho conosciuto tutti alle Olimpiadi d'Atlanta. Addirittura quando vennero a vedere la mia partita, io avevo all'età 23 anni, 24 anni, per me fu un'emozione bellissima perché mi ritrovavo la nazionale di pallavolo, i miei idoli, a vedermi giocare, quindi fu una soddisfazione stupenda. Quindi seguo sempre la pallavolo, anche se un po' negli anni mi sono perso con regolamenti e roba varia perché con l'età seguo di me. Però il professore ti ha detto calcaterra Roberto, lei non ti qui, voglio più, lei, non ti voglio lei, più, lei via va, per favore là, a giocare a pallanuoto, ed è stato un bene, lo ringraziamo, sì. Di tutto cuore. Grazie, per quello che poi è successo. Senti, qualche ascoltatore sempre mi riprende, ma questo non è un problema perché ho detto che mi sono incazzato per aver perso con la Serbia la semifinale. So che eravamo sfavoriti, è una nazionale la nostra che insomma sta andando verso l'essere una squadra forte, però quando perdi una partita di questo tipo non può essere contento, Roby. No, non puoi, perché comunque sì, la Serbia è superiore, ha fatto una preparazione per arrivare in forma fino in fondo. Conosco un po' l'allenatore, conosco amici di allenatore, ho parlato con loro e ha fatto una preparazione fregandosi nel girone eliminatorio, tanto è stato. Perché negli anni passati, per esempio, la Serbia ha perso con l'Italia a Londra nella semifinale, doveva arrivare in fondo. Quest'anno hanno scelto di iniziare male e arrivare in fondo bene, e infatti stanno dando ragione. Ieri è stata una partita con un inizio devastante da parte della Serbia. L'unica cosa che si può ricriminare un po' all'Italia è, come ha detto Sandro Campagna, che abbiano affrontato con poca sfrontatezza, però diciamo che quando sbagli i primi 1, 2, 3 superiorità numerica e la Serbia ti fa gol poi con un piccolo errore arbitrale, e fa una percentuale alta solo in più come quella di ieri sera, non ce ne sono. Per battere la Serbia loro devo giocare male e tu devi giocare in maniera perfetta, sì. Cosa che ieri sera non c'è stata, e quindi la Serbia poi esce fuori. È stato massacrante, un 6-0 umiliante. Il risultato alla fine non è veritiero, perché comunque la Serbia a un certo punto ha mollato, nel senso che ha pensato a non beccare squalifiche, a non avere infortuni, quindi si è visto che era un gioco controllato. Dal 7-2 di Nikic la partita è finita. Beh, se parti 6-0 la partita è già finita, è come nel basket, sì. Partire 0-30 e poi non rimonti più. Ma dove può essere stato l'errore? Sfrontatezza, eccessiva tensione? No, l'errore è stato che loro hanno, soprattutto all'inizio, hanno combattuto cercando di giocarsi una partita alla pari. E quando poi le cose non vanno, cioè o un palo riga oppure un tiro non semplice, forzato, e la palla non entra e gli altri fanno sempre gol, anche perché gli altri sono entrati veramente con prepotenza in porta, quindi soprattutto le prime azioni hanno proprio voluto segnare, e a quel punto ti demoralizzi, essendo anche una squadra giovane, perdi energie mentali e poi cerchi mentalmente di dire sì, adesso reagisco, ma no, vedi che non ce la fai. Poi quando ti gira anche qualcosina torta è finita, finita, non riesce a recuperare. Si dice che tutte le grandi squadre nascono da grandi sconfitte, da sconfitte molto dolorose. Beh, tutto un po', no? Nella vita è un po' così, da grandi mazzate poi esce fuori la rinascita, quindi sicuramente io per esempio quando ho fatto Atlanta ero lì ad Atlanta per loro, ho perso la semifinale a 50 secondi alla fine, vincendo 5-4 per due rigori contro, l'ho persa 6-5, quindi l'ho sognata per tre mesi, ma io ero là per loro per esempio, no? E quindi abbiamo riacciuffato una finale del terzo quarto posto che non pensavo importante, cioè mentalmente per me non pensavo più alla medaglia, poi quando sono tornato in Italia ho capito che la medaglia anche di bronzo è importante, quindi loro devono essere in grado di... Ma penso che lo sappiano già, perché penso che siano partiti loro soprattutto per il fatto che si sono giocati i posti nel girone cercando di evitare la Serbia, sono tutti lì per prendersi una medaglia, quindi entreranno con Montenegro proprio con la voglia di portarsela via e sarà una partita difficile anche quella, però io vedo spavorito il Montenegro perché ho visto un portiere del Montenegro in imbarazzo totale ieri, quindi c'è quel punto debole lì da sfruttare assolutamente. Sì, e comunque io credo che per questa nazionale, ripeto, che è cambiata molto ovviamente dopo, sì, dopo Londra, sì, un bronzo sarebbe un grande risultato. Poi possiamo discutere sul fatto, come mi ha detto mio amico Pozzecco ieri, che emotivamente la medaglia di bronzo potrebbe essere pure meglio perché finisci l'Olimpiade, certo, vincendo una partita. Io non sono così d'accordo, ma, no, ma fa niente. Neanche io non sono d'accordo. Poi tra l'altro è sempre sì comunque una medaglia, però... finisci con una vittoria, ma poi negli anni capisci un po' quello che è il valore. Poi posso dire per esperienza, secondo me le medaglie sono importanti, ma poi conta sempre soltanto chi arriva primo, sì, e quindi chi rimane nella storia. Hai ragione, però sono d'accordo. È la medaglia, quindi... Beh, però un bronzo sarebbe un grande risultato per questa nazionale. Sì, un grande risultato perché la squadra, come dice Sandro, è giovane, ha portato un gruppo che, come ho detto l'altra volta con voi, ha fatto grandi risultati a livello giovanile. Se Campagna dovesse rimanere come allenatore, ma io credo proprio di sì, ha già creato il futuro per Tokyo, nel senso, certo, che lui già, certo, ha preparato una squadra che poi le Olimpiadi è fatta di episodi. Si può succedere, ecco, che una Cardi si spacca il naso ai primi 30 secondi, può succedere che un Buric, come nella Croazia, tira un pugno e fa un errore madornale, quindi la squadra si trova a giocare con uno meno, può succedere di tutto durante un torneo olimpico, però le basi le ha già gettate, quindi c'è un gruppo che ha fatto già la prima Olimpiade e arriverà a Tokyo con un'esperienza già di un'Olimpiade di spalla che è molto importante. Sandro, pensavo proprio l'altro giorno, la capacità di un allenatore è riuscire a mantenere un gruppo, come ha detto lui, facendo dei cambi, mantenerlo giovane, fare dei cambi generazionali per poi portarlo sempre, tenerlo sempre ad alto livello, e quindi lui sta riuscendo. D'altronde Campagna per me dopo Rudic, perché Rudic è come un padre, nel senso che poi mi ha dato tutto, però è anche superiore a Rudic in alcuni, sotto alcuni aspetti, quindi Sandro per me l'ho avuto come allenatore, ho preso con lui una medaglia agli europei, è un grande allenatore, quindi valido, veramente bravo. Possiamo fare un parallelo tra Rudic e Julio Velasco, per quello che hanno dato al nostro sport? Beh, penso che siano io. Julio Velasco non l'ho conosciuto personalmente, ho sentito interviste, l'ho visto, lo seguivo perché comunque era la nazionale che seguivo di pallavolo e penso siano due figure carismatiche impressionanti, no? Quindi due personaggi che hanno fatto la storia, quindi due icone di questo sport. Quindi hai ragione, basta pensare, Roberto, hai ragione. Rudic ancora sta girando, oggi mi chiedevo chissà che farà adesso, perché comunque ha fatto un'impresa col Brasile, ha battuto la Serbia, anche se in un girone eliminatorio di un'Olimpiade ha battuto la Serbia. Il Brasile negli anni passati non si affacciava neanche neanche al 12° posto, neanche al, no, quello era proprio un dato di fatto, non arrivava all'Olimpiade, però veramente ha fatto un miracolo. Grazie Roberto, è sempre un piacere. Grazie Roberto Calcaterra. A presto. ciao. Roberto Calcaterra, icona della nostra pallanuoto. Mentre per la pallavolo, adesso mi viene voglia di richiamare Leo Turrini, perché terzo set siamo sotto di brutto, 1-1 dopo i primi due set in questa semifinale contro gli Stati Uniti, primi due set pazzeschi, combattutissimi, adesso siamo sotto 14-4 nel terzo set, ora è uscito un arrabbiatissimo Zaitsev che è stato murato e rimpallato diverse volte nel corso di questa brutta terza frazione, brutta per l'Italia naturalmente. Gli Stati Uniti continuano a murare i nostri giocatori che non sembrano più essere in grado di trovare gli angoli all'interno di quel muro, addirittura un muro ad uno per stoppare Birarelli e siglare il 15-4 per gli Stati Uniti nel terzo set. Bisogna cambiare qualcosa anche emotivamente. Chissà come la pensa, chissà come sta Leo Turrini dall'altra parte del mondo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 0024, gradirei la vostra compagnia. 35 gradi oggi. 35 gradi oggi. Ma i leoni non mollano, ragazzi. Oh, eccoli. Oh, qui altro che ciupiti di Bobovia. Ma i leoni non mollano, ragazzi. Oh, eccoli. Tutti convocati. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Esplode la grande festa dei tifosi, attenzione, c'è un tifoso in campo e un altro ancora, entrano tutti in campo, non riesco più a contarli! Da oggi è ancora più facile entrare nel grande calcio di Sky. Con il nuovo Start Calcio vivi tutte le sfide della Serie A Team e della Serie B con te.it e Sky TV a soli 21,90€ al mese per i primi 24 mesi. Chiamaci 02 50 50 o vieni su sky.it/startcalcio. Offerta valida fino al 4 settembre 2016, riservata ai residenti in determinate regioni. Info e limitazioni su sky.it/startcalcio. Convocati alle Olimpiadi. Io torno da Leo Turrini in Brasile solo per capire che diavolo sta succedendo. 20-5 per gli Stati Uniti nella terza partita. Io sono la terza indovinosa, caro Carlo, perché... Ma cosa è successo? Sono cose che purtroppo capitano, adesso bisogna cercare di trovare le risorse anche morali per reagire, perché nel secondo set, poco dopo che ci eravamo lasciati, l'Italia era andata avanti 21-18, certo, quindi aveva quasi ipotecato il 2-0 e lì c'è stato un blackout. Adesso gli americani onestamente stanno giocando una pallavolo stellare, ma noi, dopo aver perso ai vantaggi secondo set, esserci trovati in parità invece che con due set di vantaggio, nel terzo abbiamo beccato addirittura 12 punti consecutivi. Una roba che non esiste a questo livello. Adesso Blengini ha fatto la cosa che avrei fatto io, cioè ha mandato in campo la gente della panchina, Sottile, Vettori, Antonov, perché chiaramente bisogna cercare di far durare questo terzo set il più possibile, anche se compromesso, perché siamo sotto di 14 punti, e rimettere i titolari nel quarto, sì, insomma, immaginando che possano recuperare quello smalto che hanno perso di botto. Lo sport, mi dispiace, è fatto anche di queste cose. Questo terzo set, spina, Leo, questo terzo set dico, disastroso. 2-7 del terzo set, dopo che i primi due sono andati in vantaggi, è un non senso tecnico. No, cioè, è chiaro. Io credo che questo terzo set sia figlio del secondo perso quando ce l'avevi già in mano. Sì, sì, infatti lo sport anche ai massimi livelli ha una componente emotiva che devo dire è fondamentale, e lì io ho detto un blackout, perché veramente io non ho mai visto nella semifinale olimpica una squadra beccare un parziale 11-12-0. Adesso non ricordo perché mi stavano facendo una flebo per rianimarmi, però insomma, come diceva Napoleone Bonaparte, solo chi ha raccontato Austerlitz può spiegare Waterloo, e qua ci sta mettendo malissimo. 23-8 per gli americani, il quarto bisogna giocarlo, come si dice in queste situazioni, alla morte, perché il quarto set comunque riparti da 0-0. Qui l'inerzia della partita, come sostenete voi che avete studiato, è tutta a loro favore in questo momento. Noi, ripeto, stiamo cercando di prolungare il set con le seconde linee, questa è una soluzione intelligente da un punto di vista strategico, perché se non altro consenti a Giannelli, a Zaitsev, a Guantorena, eccetera, di rifiattare, di pensarci sopra. Di rifiattare e anche di schiarirsi le idee, perché, ripeto, quello che è capitato è senza precedenti. Sì, ma qui, qui io non l'ho mai visto. Una cosa più che schiarirsi le idee, serve una scintilla. Che all'improvviso si trasforma in una sfida tra realtà non comparabili. Credo che non ci credano nemmeno gli americani, ecco, questi bistecconi vitaminosi allevati a cornflakes che adesso hanno il set ball, penso lo metteranno giù, infatti l'hanno fatto, 2-1 per loro, niente, caro Genta, 25 qui siamo in bilico, ma vuoi che ti dica? No, niente, non me lo spiego come te. Nella mia memoria situazioni simili dove siamo stati in grado di ribaltarle, no? A nostro favore, ma non è che riesca a individuarle. Forse potrei citare la battaglia di Zama, quando Scipione l'africano e io c'ero, passato, no? Quel cannetto, trasse in inganno Annibale, che pensava, dopo il terzo set vinto comodamente a canne, no? Senza la S finale, perché a canne ci vai tu, io parlo di canne, no? Sì, a canne. Sì, insomma, arrivarono gli elefanti, eccetera, eccetera. A ribaltarla, però qui è dura, è molto dura. No, c'è chi scrive, l'Italia è scoppiata, non si scoppia in una partita di pallavolo, soprattutto scoppia all'improvviso. Non è assolutamente un problema fisico, questo è un problema mentale. Beh, è chiaro. Ripeto, stiamo giocando contro una squadra fortissima, e lo sapevamo, e la differenza però la fa che nella nostra metà campo qualcuno ha staccato la spina di botto, capisci? Questo non lo so, adesso sono discorsi, spero, prematuri. Si può anche ragionare sul fatto che la nostra nazionale, comunque bellissima, è la prima volta questo gruppo che gioca una partita così importante. Questo non è un alibi, però è una squadra, insomma, Guantoregna è entrato, Sienò da un anno, Giannelli ha 20 anni, insomma, non hanno, diciamo così, un'esperienza. Solo questo potrebbe motivare questo crack emotivo. No, è chiaro, non c'è altra spiegazione. Non c'è altra spiegazione. Giocare a pallavolo dai tempi di Garibaldi e Calatafimi, nella semifinale olimpica, una squadra che prende 12 punti di fila a zero, non si era mai visto. No. Mai visto. Leo, torniamo a collegarci con te più tardi, se ci dà il permesso. Adesso ti lascio, al tuo momentaneo, spero, sconforto. Momentaneo. Allora. Sì, è vero, abbiamo perso contro la nazionale serba nella semifinale di pallanuoto, ma finché la Serbia, che sul piano sportivo merita solo ammirazione, dirà alle Olimpiadi non vogliamo dividere un podio con un kosovaro, o lascerà andare in giro a rappresentare negli stadi galantuomini come Ivan il Terribile, quello di Marassi per intenderci, che stasera ha guidato la tifoseria della Stella Rossa, che era poi ieri sera nota di redazione, ha guidato la tifoseria della Stella Rossa a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sarà destinata a perdere sempre, nello sport e nel vivere civile. Sarebbe bello se un appello o una presa di posizione in questo senso arrivassero dai tanti serbi che nello sport operano anche nel nostro paese, meritando amicizia e rispetto. Queste sono parole scritte sui social, su Facebook, da Marino Bartoletti. Ciao Marino. Ciao Carlo, buonasera. Dopo averle lette non ho potuto fare a meno di chiamarti, anche perché ti confesso, no, da amico, che sono molto combattuto, anche perché io dall'inizio per ragioni totalmente personali faccio un grandissimo tifo per la Serbia della pallacanestro, che Saša Đorđević è uno dei miei migliori amici, e, però mi rendo conto di questa ambivalenza, cioè anche parlando con lui spesso non mi trovo d'accordo sui loro sentimenti, sulle loro emozioni, sul loro modo anche di vivere lo sport. Io capisco, come dire, la forza agonistica con cui si vive lo sport, soprattutto in un paese dei Balcani che comunque ne ha viste parecchie, ne ha viste anche di parecchio violente, sia negli stadi coperti o scoperti che purtroppo fuori dagli stadi. Però se si perde anche l'occasione delle Olimpiadi per tendere una mano, per gettare un messaggio, per far capire che si vuole fare qualche piccolo passo avanti, allora dello sport, lasciamelo dire, si è capito ben poco. E questo a rispetto, devo dire, dell'intelligenza certificata dei tanti amici nati a Belgrado dintorni che tu hai, che io ho e che tutti abbiamo. È una cosa quasi sconcertante rispetto alla maniera spesso easy da parte loro di affrontare la vita, perché conosciamo fior di galantuomini, amici veri, posso dire, e tutti noi stiamo pensando a qualcuno in questo momento. Però questa forma di rabbia declinata nello sport, secondo me, farà sì che accadrà tutto quello che accade nel mondo, cioè o lo sport viene reinterpretato, rivissuto e rideclinato come percorso virtuoso, oppure saranno sempre parole le nostre. O lo sport ridiventa un antidoto nei grandi e nei piccoli casi come quello di ieri, oppure che parleremo a fare? No, ma aiutami anche a rispondere ad un ascoltatore che ho già chiamato e ha detto: è colpa del sistema italiano se poi Ivan il Terribile o questo tizio qui viene di nuovo nei nostri stadi. Io credo che ci possano essere delle responsabilità nel monitoraggio, nel sistema italiano, eccetera, eccetera, ma non credo sia una spiegazione realistica dire: quel tizio grosso con tutti i tatuaggi che avevamo visto a Marassi e ieri abbiamo rivisto a Reggio Emilia, non possiamo dire che sia qui perché noi ce lo facciamo entrare. Ma no, ma qual è il sistema? Cosa vuol dire, Carlo, il sistema? Cosa, torniamo al grande vecchio, al complotto con chi ce l'ha, con la Guardia di Finanza, con la polizia, con la magistratura, con chi ce l'ha? In realtà la presenza di Ivan il Terribile ieri, è già il fatto che lo chiamiamo così, fa capire a che livelli di folklore stiamo attingendo. Comunque il problema vero è quello da cui è partita la mia modestissima nota, o come voi che sapete parlare definite il mio piccolo post. È la Serbia che non può dichiarare guerra, fra virgolette, attraverso le Olimpiadi, a dire che un suo atleta non salirà su un podio dove c'è un kosovaro. Sì, ci sono delle cose che forse noi potremmo anche non capire, ma se non ci si dà una mano all'Olimpiade, e ne sono accadute altre di cose brutte, dove ce la si dà questa mano? Sì, mi sembra comunque che i confronti tanto temuti, e che adesso rivedremo, tra Serbia e Croazia, siano stati totalmente all'insegna della sportività, quando c'erano molti che temevano qualcosa di diverso. Mi sembra quasi che quella sia una tregua, se mi consente, ormai sancita. Sì, evidentemente sì, però devono partire dalle tregue loro per estendere queste tregue a tutto il mondo, anche a quelle che in casa si sono dimenticate di fare. Cioè, qui si sta attingendo a ricordi storici, ad asti antichi, eccetera, eccetera. Allora poi non stupiamoci se nel mondo si, come dire, rievocano le crociate e si risponde alle crociate di mille anni fa, perché allora vuol dire che il mondo non può più andare avanti. Ripeto, io non pretendo la echecheria, cioè la tregua olimpica come accadeva nell'antichità, però un po' di civiltà attorno a una bandiera olimpica. Sì, guarda, non pretendo neanche che accada quello che accade tutti i giorni, quello che è accaduto due giorni fa nei 5.000 metri femminili, però perché no? Insomma, le Olimpiadi ci sono anche per questo. Sì, anche se qualcuno poi ha avuto l'idea di dire: ah, ma hanno fatto apposta per essere poi ammessi entrambi in finale, vabbè, perché ho capito, però, a quel punto non c'è più confine, no? Agli altri la propria malafede. Bravissimo, Marino. A quel punto ci arrendiamo, alziamo le mani e ci dedichiamo ad altro. Per fortuna che è alzata anche il muro italiano in questo momento, siamo 5-5. Mamma mia, ho lasciato Leo Turini che mi stava morendo. Non so, d'altra parte, ragazzi, gli Stati Uniti sono la squadra che assieme alla Russia ha vinto il maggior numero di tornei olimpici. Ha cominciato molto tardi, perché si svegliò per Los Angeles 84 e poi da allora, non dico non si è fermata mai, ma è sempre stata presente. Che ti devo dire? Sai, io appartengo alla generazione di Imagine. You may say I'm a dreamer. Io sono un sognatore. In fondo, per vincere una partita bisogna fare 3 set. Uno l'abbiamo fatto. Tu hai una spiegazione sportiva su un blackout come quello del terzo set, del secondo set, o come quello del 6-0 di ieri sera dell'Italia contro la Serbia? Quello è stata una cosa veramente triste, drammatica. Non posso dire anche perché c'era la Serbia, se no contraddico tutto quello che ho detto fino adesso. Però evidentemente sono dei blackout che soprattutto in uno sport come quello non sono rimediabili, perché lì i tempi non sono compartimenti stagni. Chiaro. I set non sono i compartimenti stagni, qui lo sono. Infatti, toccando tutto quello che è sotto mano, in questo momento stiamo vincendo in qualche modo il terzo set. Io ho fiducia in questi ragazzi, ho sinceramente fiducia. Guarda, mia nonna diceva che quando un gatto va sotto una macchina da piccolo e sopravvive, non andrà mai più sotto una macchina. Ecco, adesso siamo andati sotto la macchina al terzo set, vediamo se riusciamo a evitare le ruote di una macchina negli altri due che comunque dobbiamo fare, speriamo di dover fare. Marino, grazie come sempre, è un piacere. Ciao, grazie a te, a tutti. Ciao Marino, ciao. Brunella, buonasera. Buonasera dottor Genta. Buonasera. Io sono una vecchietta di 76 anni. Ma vecchietta, ho imparato ad amare lo sport da quando sento voi, perché io mi sintonizzo su Radio 24 durante tutte le ore del giorno e della notte, perché vivo sola, ho perso mio marito 11 anni fa e sentire le voci. Ma io ascolto solo Radio 24. La ringrazio molto. E non lo so, prima quella signora, lei si lamentava perché non le ha fatto la carezza, ma io gliene faccio 100 di carezze. Che gentile. Lei, no, perché se lei le accetta da una vecchietta, ovviamente. io le accetto da una splendida signora, le accetto con tutto il cuore da una splendida signora. Dottor Genta, guardi, lei specialmente quando parla con qualcuno che non è d'accordo su quello che danno agli sportivi eccetera, c'è un modo di fare che è tranchant, ma è da gentleman. Lei mi piace da matti, insomma. Ma grazie, ecco. Signora. Mi piace Pardo, mi piace Capuano, mi piace Turrini, specialmente prima delle Olimpiadi, quando era sempre fermo nella tangenziale con Marchionne. Ma adesso torna, adesso torna. Mi faceva ridere da morire, guardi, siete di una simpatia unica e fate amare lo sport anche a una come me, che sinceramente non me ne sono mai occupata troppo. Guardi, complimento più bello di questo non ne potevo ricevere. Arrossisco, sono commosso. Sia tranquillo che io l'ascolterò sempre. Grazie signora, la ringrazio davvero. No, signora, mi chiami Brunella perché Brunella, mi sento troppo vecchia, No, è meraviglioso ricevere un complimento come questo, che adesso mi farò tagliare da... anzi me lo taglierò da solo, ovviamente l'audio, e me lo conserverò per sempre, perché complimenti così capita raramente di riceverli. Capito Leo Turrini? Non c'è? Lo so che non c'è, ma a distanza, capito? Leo, beccati questa. Torniamo all'altra delusione di ieri sera. Ora, perdonatemi, io continuo a chiamarla delusione, se non siete d'accordo chiamate, non c'è problema, ho il massimo rispetto, questo per rispondere anche al complimento di Brunella, per l'opinione di chiunque. Beach. All'attacco lupo il muro di Alisson. No! Non è finita! L'arbitro dai quattro doppi. Ma perché se... L'arbitro dai quattro doppi. Finisce qui. C'è la festa del Brasile. Su Copacabana, sventola, bandiera brasiliana. Ma noi, Lupo Nicolai, siamo nell'Olimpo. Rivediamola. Sarebbe stato stupido pensare che abbiamo la medaglia d'argento, non proviamoci. Abbiamo dato tutto, in alcuni momenti probabilmente quando hai l'occasione di metterli sotto devi sfruttarla. Loro sono stati bravi a venirle fuori subito, sono sicuramente la coppia più forte del mondo, l'hanno dimostrato anche stasera, quindi complimenti a loro. Allora, un risultato così nel... Miro, devo essere sincero, però sono contento che abbiamo vinto questa medaglia, era importante per l'Italia e niente, ci ora festeggiamo un po'. Allora, un risultato come questo nel beach volley olimpico non l'avevamo mai ottenuto, nemmeno quando Eugenio Amore era uno dei nostri portacolore alle Olimpiadi nel beach volley. Abbiamo parlato l'altro giorno, ciao Eugenio, buona serata. Buona serata, che dire, è stata una cosa fantastica, sicuramente non una delusione, perché ci abbiamo provato in tutti i modi. Posso dirti con estrema amicizia, mentre siamo sotto 9-11 nel terzo set, 2-1 per gli Stati Uniti nella semifinale della pallavolo maschile, sì. Posso dirti con tutta l'amicizia del mondo, io ero arrabbiato. Vabbè, allora ci abbiamo avuto qualche occasione, a parte la partenza del primo set 5-1, così ci abbiamo avuto la palla del 20-19 gestita forse con un po' di... Sì, ma non arrabbiato con loro, sì, so sì, che sì, è andato sì, il massimo, però sì. Cioè, quando sei lì magari ti girano, poi, eh. Sì, poi c'era Alisson comunque che qualche regalo ce l'ha fatto, perché è dato un momento, come si chiama in gergo, di banana, e ci ha regalato quelle 4-5 palle, solo che lì c'è quel Bruno che non voglio dire un'eresia, ma è un Emmanuel che se continua a giocare così per tanti anni è veramente un giocatore più forte che ho mai visto giocare, per le caratteristiche, diciamo, fisiche che ha. È veramente un equilibrio in campo spaventoso. Noi ci abbiamo messa tutta, diciamo che secondo me, se vogliamo proprio essere critici da tavola rotonda del calcio, non critici, sia chiaro, naturalmente in maniera costruttiva, è mancata la battuta di Nicolai come costanza nella partita e un cambio palla più regolare di Lupo, però sono cose che dove ci inficia l'avversario, nel senso, certo, che è lui che ce lo può far male il cambio palla. Quindi loro adesso sono la coppia sicuramente più forte di tutti. Alisson si vedeva benissimo che sentiva la pressione di dover vincere a tutti i costi, vista la sconfitta di Londra, e quindi quegli errori gratuiti che ha fatto li ha fatti per quel motivo lì, però c'è dietro quello lì che sembra una scena, Marziano, nel senso, sì, una scena. Noi siamo stati comunque bravissimi, si poteva fare, magari un set lo potevamo strappare, vincere la partita la vedevo dura, però un set si poteva strappare. No, ma non è questo discorso. Quando ti trovi di fronte ad una finale è chiaro, poi giocavi contro la coppia migliore del mondo, certo, davanti a 25.000 persone e anche nel bisogno in Brasile. E non so quante volte ti possa capitare una situazione ambientale così. Nel beach volley, certo. Loro non hanno niente mai da perdere, Loro non hanno niente da perdere, Nicolai Lupo, perché se avessero perso come è successo era quasi normale, e quindi potevano magari dare qualcosina in più da quel punto di vista lì, ma se era fuori è molto facile dirlo. Loro, certo, si vedeva che volevano vincere a tutti i costi, questo si è visto dalle facce di Nicolai Lupo, volevano vincere a tutti i costi, e di Alisson si è visto tanta paura in certe occasioni, però alla fine l'abitudine a vincere è quella che poi ti porta a continuare a vincere. Certo, senti, immagino tu stia guardando la pallavolo. Stavo guardando prima, sì, di collegarmi con voi, stavo guardando a pallavolo, il terzo set penso che sia un record, 25 a 6. Hai una spiegazione? Sinceramente no. No, l'America secondo me è prorompente, e se la stanno giocando quasi fisicamente, c'è stato un blackout totale dell'impossibilità di fare punto. E lì sono spenti, ma però 25-6 non è mai giustificabile. No. Vuol dire aver lasciato i remi, ma presto, Sì, no. Secondo me i remi li hai lasciati nel set precedente, quando eri in vantaggio. Quando eri in vantaggio, poi ti è scivolato via dalle mani e là hai lasciato i remi. Sì, lì si sono un attimino, come succede a tutti i livelli, che ti spengi un attimo, però non sono riaccesi. E lì, con quelle partite lì, con quei giocatori, con quegli avversari lì, non ti puoi permettere di ritardare 5 minuti per metterti in moto, perché ti massacrano. Tornando adesso l'America è fotonica. Sì, è fotonica, sono pazzeschi. Tornando per un attimo al vice, per chiudere con Eugenio, questa medaglia d'argento è la base di partenza per arrivare dove? Questa è una domanda delicatissima, perché bisogna essere bravi a rispondere. Allora, purtroppo non c'è una diretta proporzione fra i risultati di una nazionale e i risultati di un beach volley nazionale, purtroppo, perché è evidente. Sì. Si spera che questo risultato eclatante, perché è un risultato eclatante, sia l'incipit per sviluppare un circuito e un movimento nazionale globale che possa aiutare poi a dare nuove nascite di nuovi personaggi del gioco, perché per adesso non è così. Questo, se non lo fa questo, se non lo smuove questo risultato, non lo smuove più niente. Certo, sono d'accordo con te. Non lo smuove più niente. Grazie Eugenio, a presto. Di niente, buon lavoro e grazie a voi. Ciao Eugenio, ciao, amore. Ciao. Nostro ciao. Olimpionico del beach volley a Londra. Dunque, adesso, prima di tornare da Leo Turrini, io volevo, perché abbiamo preparato un montaggio spettacolare sul caso più pulp di queste Olimpiadi. Ve lo faccio sentire. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. caso più parte di queste Olimpiadi, noto a tutti i notiziari, i rotocalchi, e giornali scandalistici, non solo sportivi, in tutto il mondo, è quello di questi quattro nuotatori americani guidati da Ryan Lochte, che è uno dei più forti nuotatori americani degli ultimi 12-15 anni. Tra l'altro un nemico giurato agonistico, non solo di Massimiliano Rosolino, che non l'ha mai potuto sopportare. Ebbene, sono, dopo la conclusione della loro Olimpiade, sono riusciti a fare baldoria, il caso lo conoscerete, poi sono tornati al villaggio olimpico alla mattina, siamo stati rapinati con le pistole alle tempie, eravamo troppo ubriachi per capire cosa stesse succedendo, eccetera, eccetera. In realtà si sono fermati a una stazione di servizio, l'unica parte vera era che erano ubriachi da fare schifo e hanno distrutto una stazione di servizio, hanno distrutto il bagno della stazione di servizio, spingendo addirittura una guardia della sicurezza a tirare fuori l'arma in dotazione per fermarli. Quindi non era una pistola alla tempia, ma era semplicemente la guardia di servizio che si difendeva dalla loro furia. È uscito tutto perché, come diceva mia nonna, le bugie hanno le gambe corte. E alla fine lo stesso Lochte, che è rientrato in fretta e furia negli Stati Uniti proprio per evitare guai perché mica è fesso, ha detto: sì, avrei dovuto essere più cauto e trasparente nella ricostruzione dei fatti, e comunque sia andata avrei dovuto essere più responsabile, diciamo che ho imparato la lezione. Dopo aver vinto l'oro nella 4x200, ricordiamo, Lochte, grandissimo nuotatore americano, diciamo che ho imparato la lezione. È traumatico trovarsi in un paese straniero con i tuoi amici, con l'ostacolo della lingua, trovarsi di fronte a uno straniero che ti punta l'arma e ti chiede soldi per lasciarti andare, ma a prescindere dal comportamento di chiunque avrai dovuto essere molto più responsabile. Italia 15, Stati Uniti 16. Mi immagino Leo Turrini cereo nonostante 3 settimane di sole brasiliano. Io sono alla quarta flebo, meno male, l'ha messa giù Giannelli. Allora diciamo che, come si può capire dal punteggio, che è il 16 pari, abbiamo riattaccato la spina, stiamo giocando come nei primi due parziali, punto su punto, rimane il mistero di quel blackout clamoroso, incredibile, che ci ha quasi buttato fuori dalla partita. Adesso è uno strazio, questa partita è un'odissea dello strazio, veramente, perché... E pensa che mi tocca, insomma, augurarti il tie break, Fai bene, perché me lo auguro anch'io, ripeto, poi comunque finisca, ci sarà da interrogarsi su quel passaggio a vuoto, perché tu sei al terzo set in vantaggio 3-2 e dopo pochi minuti sei sotto 20-5, vuol dire che hai preso 18 punti a 2 ed è una cosa che non accade nemmeno all'oratorio. E poi di nuovo al quarto set, come adesso, sei lì punto su punto, una sofferenza lancinante. C'è da dire che tecnicamente gli americani sono molto migliorati in ricezione, sì, dopo, certo, l'inizio. Certo. Anche sì, ma non è una spiegazione tecnica. No, ma ti voglio dire, è una cosa emotiva, Certo, adesso siamo riusciti a mettere giù una palla che sembrava impossibile, 17 punti. Cioè, Wantorenyi e Zaitsev adesso non passano più con la fluidità della prima mezz'ora di partita. Poi sì, sono d'accordo, l'ho detto per primo, si è trattato di un blackout emozionale, come dite voi che avete studiato, che sarà come quello che avrò io alla fine, qualunque sia l'epilogo. Comunque, guarda, domani non ci sentiamo. Domani a fare le sabbiature, ma bravo, avrò modo, certo, di riprendere. Ci sentiamo domenica, invece. Ci sentiamo domenica dalle 17 alle 20 per il gran finale di queste Olimpiadi. Tutti convocati weekend per l'inizio del campionato di calcio. Io ringrazio di tutto cuore per tutte queste serate Claudia Schiattone, nostro autore, Leonardo Sirigato e Lorenzo Rotella, che hanno meravigliosamente lavorato in redazione, nonché Pietro Lacorte, che ha fatto lo stesso in regia. Beh, ci siamo divertiti fin qui, ma adesso gran finale domenica. Ciao ragazzi. Convocati. Andiamo a vincere ancora!